testa, vai a voi! Poi comando a te! E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! E un bentornati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Va a cominciare Impatto, voci contro le nocività, scaletta della trasmissione di oggi. Andremo a leggere uno dei comunicati in sostegno degli recentissimi arrestati Notav. Continueremo la trasmissione parlando di smaltimento dei rifiuti e della Regione Lazio, perché la scorsa settimana ci sono state parecchie iniziative e le iniziative continuano anche questa settimana. Poi intorno alle 18 cercheremo di metterci in contatto con la Campania per fare due chiacchiere e qualche valutazione sul decreto della Terra dei Fuochi varato lo scorso 3 dicembre che non convince per niente comitati e popolazione. Chiuderemo la trasmissione poi con alcune notizie su cambiamenti climatici e in particolare sull'inquinamento in Cina. E allora comincia anche quest'oggi, questo lunedì 9 dicembre, Impatto. E come abbiamo ricordato la scaletta, questa mattina presto sono scattate perquisizioni e arresti a Torino e dintorni in relazione alla vertenza Notav. Vengono contestati in particolare a quattro compagni reati accaduti nella scorsa primavera. E degli arrestati, insomma, sappiamo che soltanto due sono stati tratti in arresto, ma insomma continuiamo andando a leggere uno dei comunicati prodotti in queste ore proprio a seguito di questa ennesima operazione repressiva ai danni del movimento Notav e anche insomma del fatto che si continua a utilizzare l'accusa di terrorismo. Sì, leggiamo questo comunicato pubblicato su InfoOut questa mattina. Il comunicato dice: una nuova operazione contro i Notav è scattata questa mattina a Torino. Alle prime ore dell'alba, polizia e agenti della questura si sono presentati in due spazi occupati della città, l'asilo di via Alessandria e una casa occupata di via Lanino, con un mandato di arresto e di perquisizione nei confronti di diverse persone accusate di aver partecipato ad un attacco al cantiere di Chiomonte. Le modalità violente con cui l'operazione si è svolta, ossia con diversi blindati e celerini che facevano irruzione sfondando le porte, hanno inizialmente fatto temere per uno sgombero dei due spazi, ma dopo non molto è stata invece confermata la voce che parlava dell'ennesima operazione repressiva a danno dei Notav. Ancora una volta l'inchiesta porta le firme di Padalino e Rinaudo, i due PM con l'elmetto che ormai da tempo coordinano le indagini contro il movimento. L'operazione si riferisce ai fatti accaduti nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013. Quando un gruppo di Notav fece visita al cantiere di Chiomonte, sabotando alcuni mezzi e segnalando la propria presenza con alcuni razzi e bengala. L'accusa che viene mossa è nuovamente quella di attentato per finalità terroristiche ed eversive, già utilizzata quest'estate per giustificare le decine di perquisizioni avvenute il 29 luglio a danno di altrettanti Notav. Procura e questura hanno disposto l'arresto per quattro persone. Uno di loro, Claudio, non è stato trovato ed è riuscito a sfuggire all'operazione, mentre un secondo, Niccolò, si trova già al carcere delle Vallette di Torino. Gli altri due arrestati sono Chiara, portata via questa mattina dall'occupazione di via Lanino, e Mattia, un ragazzo di Milano, tradotto anche lui nel carcere di Torino. Dalla prima rassegna stampa si apprende infatti che l'operazione è stata coordinata congiuntamente dalle procure di Torino e Milano, impegnate con un pool antiterrorismo ad indagare sui vari attacchi al cantiere di Chiomonte avvenuti nei mesi tra febbraio e luglio e ormai bollati come eversivi. Altre perquisizioni sono ancora in corso nella città di Torino, ma al momento non risultano altre denunce o arresti. Come già in occasione delle perquisizioni di luglio, quando il movimento NOTAV respinse il compatto di accuse di terrorismo, anche in questo caso non saranno impianti accusatori ridicoli e attacchi giudiziari sempre più feroci a fermare la determinazione di un movimento grande e popolare. Chiara, Mattia, Niccolò, Claudio, liberi subito. E questo insomma è uno dei comunicati che è stato prodotto in queste ore a seguito di quest'ultima operazione repressiva. Ricordiamo che la settimana scorsa era stato chiesto un mese di condanna per Alberto Perino per reati di opinione. Alberto Perino subisce da parte della magistratura questo tipo di attacchi costantemente e il movimento NOTAV nel suo complesso sta subendo un attacco a 360 gradi da appunto le accuse più fantasiose legate a eversione e terrorismo a quelle veramente fastidiose legate a reati di opinione e dichiarazioni in pubblica stampa. È evidente che insomma l'apparato istituzionale ha cominciato e da parecchio tempo sta portando avanti una campagna diffamatoria e di persecuzione contro il movimento NOTAV e questo è purtroppo un altro dei passaggi che però insomma fortunatamente il movimento riesce sempre a contrastare e a controbattere con efficacia. Le settimane passate sia in Val di Susa, la settimana scorsa sia in Val di Susa sia in altre località italiane si sono svolti parecchi convegni e dove sono stati invitati giuristi di insomma anche giuristi di fama nazionale proprio per parlare dell'accanimento che viene portato contro il movimento NOTAV e in generale contro le lotte sociali e la sproporzione di uomini, mezzi e apparato legislativo a disposizione delle istituzioni proprio per contrastare i fenomeni di protesta sociale e invece magari poi l'assoluta inadeguatezza legislativa invece per arginare altri tipi di fenomeni e venivano portati come esempi proprio gli scempi ambientali e la legislazione assolutamente allegra che la tutela ambientale ha in questo paese. Forse insomma i convegni della settimana scorsa che insomma hanno dato sono stati molto seguiti e hanno comunque un peso all'interno del panorama giuridico italiano hanno dato molto fastidio e la procura di Torino e i PM con l'elmetto hanno dato una risposta alla maniera loro con questi nuovi quattro provvedimenti. Insomma la radio non smetterà di dare aggiornamenti su questa vicenda e insomma speriamo che tutti i compagni tornino liberi il più presto possibili. Andiamo con un po' di musica e poi rientriamo ai microfoni con aggiornamenti sui rifiuti del Lazio. E allora, finito questo pezzo, torniamo in voce e continuiamo con la scaletta della trasmissione di oggi, insomma parlando degli aggiornamenti per quello che riguarda le mobilitazioni contro appunto le devastazioni ambientali legate al ciclo dei rifiuti e allo smaltimento dei rifiuti. Lo scorso sabato 7 dicembre ci sono state un paio di manifestazioni, una a Cerveteri contro il progetto di discarica a Cupinoro, l'altra a Guidonia contro l'allargamento della discarica dell'Inviolata e la costruzione dell'impianto di MB. Insomma, queste mobilitazioni danno il segno della continuità dell'attività dei comitati proprio in territori dove la presenza di impianti e discariche è ormai più che decennale e il loro ampliamento continua a mettere a rischio, insomma, la salute delle popolazioni. Proprio lo scorso 6 dicembre una notizia che è stata un po', è passata un parecchio sotto tono. Lo scorso 6 dicembre, poco dopo le 23, si è alzata una colonna di fumo dall'area della discarica di Malagrotta. Un grosso incendio deve essere sprigionato all'interno del comprensorio di Malagrotta, tant'è che insomma si è alzata una colonna di fumo visibile da parecchia distanza, che è stata fotografata dai residenti allarmati proprio dal tipo e dalla qualità di fumi sprigionati da questo incendio e dagli odori nauseabondi ad essa collegata. Odori di due tipi diversi, uno proprio legato alla combustione dell'immondizia e l'altro invece il comune odore della fermentazione dell'immondizia stessa. Diciamo che a Malagrotta ormai sono parecchi mesi che si rilanciano allarmi rispetto alla presenza di odori nauseabondi. E il capping di Malagrotta effettuato con 1.200.000 metri cubi di frazione organica stabilizzata probabilmente sta dando più di qualche problema sia ai residenti sia all'azienda che sta operando la chiusura e il tombamento degli invasi di Malagrotta. Questo FOS che viene utilizzato evidentemente putrido, marcisce, si decompone, fermenta e puzza da morire e quindi insomma probabilmente non è lo strumento più indicato per mettere in sicurezza e tombare un posto, un luogo altamente nocivo. Però insomma lo scorso 6 dicembre l'incendio e la colonna di fumo c'è stata, dalle resoconti che sono disponibili in rete si è saputo che un deputato del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro abita proprio lì a Malagrotta, è andato sul posto insieme ai vigili del fuoco, però non gli è stato permesso di entrare per vedere l'entità e le cause della colonna di fumo che si era alzata. L'azienda, la Colari, ha negato con tutte le sue forze che fosse un incendio in corso all'interno del comprensorio e ha addossato tutte le responsabilità al cattivo funzionamento dei biofiltri dell'impianto di captazione dei gas. Questa insomma giustificazione ci fa sorridere e arrabbiare nello stesso tempo, perché stranamente è la stessa giustificazione che è stata data alcuni mesi fa ai residenti e alle popolazioni di Albano Laziale per giustificare gli odori tremendi che proprio tra ottobre e novembre si sprigionavano nel comprensorio della discarica di Roncigliano, e anche in quel caso è stata addossata la responsabilità al cattivo funzionamento dei biofiltri. Questo insomma sono menzogne belle e buone. Il cattivo funzionamento dei biofiltri non produce né odori molesti né colonne di fumo altre 20 metri, ma al massimo insomma può dare problemi nei paraggi dell'impianto stesso. Ed è curioso come si riutilizzi sempre la stessa giustificazione. E poi insomma è indicativo che un parlamentare piombato lì, arrivato lì sul posto durante l'evento stesso non gli venga permesso di avvicinarsi al sito per constatare cosa sta realmente succedendo, e quindi insomma anche la poca chiarezza e la poca trasparenza insomma di cui le aziende di Maglio Cerroni sono assolutamente rinomate per questo nella gestione dei propri impianti continua in maniera abbastanza allegra. E qui insomma è evidente che il capping di Malagrotta e la sua chiusura sono fumo negli occhi per i residenti che si trovano a vivere in quella condizione, perché insomma la situazione ambientale è veramente tragica. A proposito appunto di Malagrotta e rifiuti nella nostra regione, sempre più con sempre maggiore urgenza nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, la Regione Lazio sarà costretta a emanare il proprio piano dei rifiuti regionale. Il piano dei rifiuti regionale è un documento di indirizzo politico, non ha nessuna valenza amministrativa e quindi efficacia, però è il documento di indirizzo politico che dà l'indicazione, segna la strada che poi le amministrazioni seguiranno e quindi i progetti e le attività su cui punterà la regione durante appunto la giunta Zingaretti. Questo piano dei rifiuti aspettato e previsto per insomma l'autunno è stato molto rallentato probabilmente dalle mobilitazioni che ci sono state fino a questo momento, però questo venerdì 13 dicembre in una saletta della Regione Lazio a Garbatella, la Sala Tevere, una sala di 20 che accoglie 20 persone, è prevista una presentazione al pubblico. Quindi insomma già prima contraddizione, una presentazione al pubblico dentro una sala che può ospitare non più di 20 persone. E poi nota curiosa, il sistema di accredito per i giornalisti e o eventuali partecipanti a questa presentazione è assolutamente falso e non funzionante, quindi non è possibile accreditarsi attraverso il sito della regione e quindi partecipare a questa presentazione, contraddicendo invece quello che pareva uno degli aspetti più importanti proprio di questa iniziativa che la Regione Lazio con il presidente Zingaretti e il suo assessore rifiuti Civita pareva dare, e che era quella di aprire la discussione ai comitati, alle associazioni, alle popolazioni proprio per fare un piano dei rifiuti condiviso, e quindi siccome era condiviso non era nocivo. Evidentemente c'è tanta voglia di farsi belli dietro parole come partecipazione e democrazia, però poi nei fatti bisogna cercare in tutti i modi di tenere lontani gli scocciatori, e quindi questo prossimo venerdì 13 dicembre probabilmente comitati e cittadini saranno costretti a scendere in piazza e a andare a trovare Civita e Zingaretti alla Regione Lazio per spiegargli che insomma di trasparenza e partecipazione loro proprio non possono parlare. Quindi questo insomma per come piccolo inciso proprio su quello che sta avvenendo su questo argomento. Tra l'altro vari comitati della regione proprio per contrastare le politiche regionali dello smaltimento dei rifiuti in questa settimana e precisamente sabato 14 organizzano un'assemblea pubblica proprio per rilanciare le mobilitazioni contro la vera e propria presentazione e attuazione del piano dei rifiuti. E noi andiamo a leggere il piccolo comunicato appello che chiama questa assemblea e poi insomma andiamo alle conclusioni. Leggiamo l'appello ai comitati laziali per un'assemblea sul nuovo piano dei rifiuti. Gli ultimi decenni hanno visto abbattersi sui territori della Regione Lazio un'infinita varietà di nocività ambientali. Mentre da un lato speculatori senza scrupoli aprivano cantieri e presentavano progetti di impianti devastanti come discariche, inceneritori, cementifici e impianti a biogas e biomassa, Dall'altro, partiti e amministrazioni locali garantivano a questi vagonate di fondi pubblici attraverso tariffe e incentivi, annientando di fatto ogni possibilità di organizzare un piano raccolta differenziata porta a porta, teso alla riduzione, al riuso e al riciclo dei rifiuti. Solo recentemente i comitati nati nella regione a seguito di questo attacco speculativo hanno iniziato ad esprimere una concreta volontà di affrontare le sfide dell'attuale contingenza politica, economica e sociale con un sostanziale respiro unitario. Finora le diverse vertenze sono state affrontate dai diversi comitati in forma più o meno autonoma, con modalità differenti e con alterne vicende, anche se stanno diventando sempre più importanti le esperienze di collaborazione tra le diverse realtà territoriali che caratterizzano le diverse lotte. Vedi ad esempio l'enorme corteo del 21 settembre scorso. Fra di noi quindi si sta facendo sempre più strada l'idea che sia necessario, a fronte di piani rifiuti straordinari sempre più devastanti per salute ed ambiente, un'azione di contrasto coordinata e ben diffusa nei diversi territori per mantenere le proprie specificità sul territorio di competenza, di lotta e di esperienza. Il 13 dicembre prossimo verrà presentato dal presidente della regione Zingaretti il nuovo piano rifiuti del Lazio. Vorremmo quindi chiamare i diversi comitati che si occupano dei temi rifiuti e energia, che ben sappiamo essere ai noi strettamente legati, ad un'assemblea di studio e confronto sul nuovo piano, per tirare le somme di quest'ultimo anno di gestione commissariale e per decidere assieme i prossimi passi, volti a imporre la nostra piattaforma condivisa per la gestione dei rifiuti. Lanciamo a tutti i comitati un appello per un'assemblea di confronto sul nuovo piano rifiuti del Lazio, prevista per sabato 14 dicembre alle ore 15 all'Università La Sapienza, al lucernario occupato in via delle Scienze 1, e è firmato assemblea per il coordinamento dei comitati rifiuti energia del Lazio. E allora, dopo insomma questo fitto numero di appuntamenti, ci fermiamo per una pausa musicale e torniamo a poi tra brevissimo in onda. Around me, energize me, crawl on aboard this train ride. Talk about raw hardcore, leaving frauds on the outside. But the bad thing is anyone can ride the train, and the reason for that is 'cause we look the same. Looking all around at my so-called friends, light skin to the brown, the black. Here we go again. Homie over there knows keeping, but he be thieving. I don't trust him, better bust him up. Out goes his hand and I cross. He was stolen from me. Yeah, I wanna cut it off. The black thing is around, I call a night train. He rides the joint, the bad one, call a monkey train, train to attack the black, and it's true. 'Cause some of them looking just like you. About the same, they're gonna sell out who's taking a ride like cargo. Could be deal the keys from Key Largo. Running that narcotic, but your chief got it. Take a making the G's erotic. And it feeds his skis so we can put them down. But his method is wrecking, I put him in the ground. Got the nerve to tell me, yo, brother man, he ain't black man, better yet he's Pac-Man. Know the murder is owned. Trader on the phone, riding the train, self hate, a train of self pain. The master's toy, his little boy, hard to avoid. Look with it, but he know it for it. 'Cause he ride the train, you think he's down for the cause? 'Cause his face looking just like yours. Consider him an enemy. Who am I to tell a lie? Rather push against the bush. Hope the crack gets crushed. I'm rolling with Rush, leader of the bum rush. Rushing I ain't, we're spitting like paint. Looking at the pot I got and it's kicking. But it ain't chicken, but it's living for a city so sick and tired of a scene buck wild. Pile in a foul seat now or child. It said it never been no worse than this. I'm on a night train, then hope you don't miss it. Give you what they got to give, you just go. You mustn't just put your trust in every brother, yeah. So don't give a damn, cause they the other man. What's in a bomb, posing as Uncle Tom. Disgracing the race and blowing up the whole crew. With some of them looking just like you. All aboard! E torniamo d'onda, in onda d'impatto, parliamo adesso di, della Terra dei Fuochi, nel casertano e nel napoletano, un'area che comprende tra i 15 e i 20 comuni di 200, quindi circa il 10% del territorio, che ahimè fa parte del piano regolatore della Camorra. In quest'area infatti il clan dei Casalesi e il clan dei Mallardo, ossia un clan napoletano e uno casertano, si uniscono e fanno di quest'area un triangolo maledetto tra Quagliano, Villaricca e Giugliano, in cui vengono seppelliti e incendiati i rifiuti, molto spesso tossici. Quindi un'area che vede, insomma, negli ultimi anni in particolare l'aumento dei fuochi, proprio dei fuochi illegali e molto pericolosi, e per il quale, insomma, il 3 dicembre è stato realizzato un decreto da parte del Consiglio dei Ministri, un decreto che però vorremmo anche un po' mettere in discussione da questa radio, anche attraverso un collegamento con un compagno di quell'area. E infatti il decreto, che vuole essere soprattutto una fotografia poi di quest'area, si prende il compito innanzitutto di perimetrare le aree interessate e stanzia dei fondi per la bonifica di quest'area, fondi che però sembrano essere abbastanza inadeguati. Si parla infatti di 600 milioni per la bonifica, più 300 milioni per la regione, una cifra assolutamente insufficiente per i danni che comunque sia quest'area ha accumulato nel corso degli anni e che, insomma, stanno anche mettendo in discussione, stanno minando, insomma, la salute della popolazione locale. Inoltre questo decreto introduce un nuovo reato, ossia il reato di combustione di rifiuti. In realtà era un reato già presente, però, diciamo, se ne aggrava la pena, in particolar modo se questo reato viene realizzato nel territorio della Campania. All'interno di questo decreto inoltre sono presenti una serie di norme che in realtà con la Terra dei Fuochi non c'entrano niente, ma sono invece finalizzate ad aiutare le imprese di interesse strategico nazionale, ossia l'ILVA. Sono norme che permetteranno infatti all'ILVA lo sblocco delle risorse sequestrate e che renderanno le procedure amministrative all'interno dei cantieri più veloci. Tornando, diciamo, al discorso su il reato di combustione dei rifiuti, noi d'impatto vorremmo fare un'osservazione sul fatto che a quanto pare la combustione dei rifiuti è illegale soltanto se la fa la Camorra, perché poi se la fa lo Stato invece va tutto bene, visto che comunque sia il piano dei rifiuti nazionale è abbondantemente basato sulla realizzazione di inceneritori e, insomma, per quanto ci vogliono spassare queste tecnologie come tecnologie verdi, sappiamo benissimo che non c'è filtro che renda l'impatto di queste tecnologie non fortissimo sul territorio, e quindi e comunque la combustione c'è sempre all'interno degli impianti di incenerimento dei rifiuti oppure nei cementifici. E quindi, insomma, il reato, si potrebbe comunque aprire un'ipotesi di reato di questo tipo, perché, insomma, se incendiare, bruciare rifiuti, lì dentro questo viene fatto, e non c'è, insomma, senza ombra di dubbio. E quindi ci pare molto contraddittoria questa norma, che magari potrebbe anche, chissà mai, magari ritorcersi contro rispetto ai progetti di inceneritore. Sì, sicuramente pone in questione, insomma, tutta sia paradossale poi il fatto che la combustione dei rifiuti vada bene se realizzata dallo Stato e se realizzata dalle imprese finanziate da soldi pubblici, quindi quando c'è un reddito tra virgolette pulito, e quando invece avviene per strada da parte delle Camorre è un altro discorso. Certo, ovviamente molto più appariscente un rogo in mezzo alla strada, però in realtà sappiamo benissimo che, insomma, parliamo esattamente della stessa identica cosa, e parliamo soltanto appunto di un sistema che invece si inserisce all'interno di un sistema capitalistico, di un'economia ufficiale. Ma adesso entriamo in contatto con il compagno, ossia è Massimiliano Di Capua, di uno dei comitati locali. Massimiliano, mi senti? Massimiliano? Sì, buonasera. Ciao, noi ti ringraziamo di essere entrato in contatto con noi. Abbiamo già dato ai nostri ascoltatori un po' un quadro generale sul contenuto di questo decreto. E non so, vuoi farci qualche commento, tu che insomma risiedi in quelle aree in ogni caso? Sì, allora buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che ci date ogni volta. Beh, io credo che diciamo così, non io ma in generale un pochino tutti i movimenti, fare una valutazione sul decreto sia una cosa estremamente difficile, un argomento estremamente ambivalente, almeno al momento, perché è giunta come, diciamo così, un fulmine al ciel sereno per tantissimi di noi che da anni lottiamo. Sicuramente se la domanda precisa e se il decreto abbia in qualche modo raggiunto e soddisfatto le aspettative dei comitati e delle comunità campane che da anni si battono contro l'impiantistica, contro i rifiuti e contro il biocidio, la risposta è sicuramente no. Ci sono delle valutazioni appunto diverse, ma in generale possiamo dire, tranne delle rare eccezioni, delle mosche bianche, sostanzialmente tutti i comitati campani, i movimenti e le lotte reali che vivono sul territorio e che vivevano da prima anche del fiume in piena sono completamente, diciamo così, contrarie e faranno battaglia contro questo decreto, che altro non è che il tentativo becero della controparte istituzionale di far rientrare questo movimento moltitudinario grande che è stato chiamato fiume in piena in un ambito di compatibilità con il sistema. Sappiamo bene di che cosa parla soprattutto dell'introduzione del reato di combustione dei rifiuti, pratica che, diciamo, quando lo Stato italiano viene chiamata termovalorizzazione e adesso hanno messo il reato. Si parla di militarizzazione del territorio, si parla di una commissione interministeriale che non si capisce bene sotto quale mandato e per mandato di quale comunità abbia, diciamo così, la facoltà di poter decidere e di poter gestire i fondi delle bonifiche e le bonifiche stesse. Questo forse è il punto, diciamo così, più delicato e sul quale dare battaglia, perché per noi fondi e bonifiche devono essere sotto controllo popolare, devono essere le comunità a decidere questi fondi dove andranno a finire, come verranno utilizzati, e riteniamo che come primo passaggio sia quella di un uso, diciamo così, welfaristico di questi fondi delle bonifiche, a cominciare da strutture che siano capaci di capire il biocidio in che modo è impattato sulla salute dei campani e delle comunità campane. Sì, tra l'altro volevamo, insomma, stavamo anche notando noi prima che questo decreto sembra quasi voler ritrarre un problema semplicemente legato alla camorra, comunque sia alla mafia, quindi insomma il problema dei rifiuti sembrerebbe essere soltanto quello del rifiuto illegale, mentre insomma negli ultimi anni la regione, lo Stato in Campania stanno realizzando comunque una gestione dei rifiuti tutta basata appunto sugli inceneritori e su discariche estremamente pericolose, anche nel modo in cui vengono realizzate. Quindi non so, una tua opinione appunto su questa cosa per cui la combustione dei rifiuti è illegale soltanto se viene fatta per mano della mafia? Ma diciamo con chiarezza che se questi tentativi e questa lettura fino a qualche tempo fa un po' ci spaventava, soprattutto a noi che veniamo da lotte di lungo percorso. Io ti parlo dall'Alto Casertano, dove ci sono lotte almeno da metà anni 90, quindi siamo intorno al ventennio di lotte. Ci preoccupava questo tipo di letture, che è una lettura che sicuramente era in controtendenza e cozzava con la lettura dei movimenti. Per noi le istituzioni, la camorra, che non chiamiamo nemmeno camorra ma la chiamiamo capitalismo armato, sono due facce della stessa medaglia. È stata esclusivamente, diciamo, chi ha gestito la logistica di alcuni piani fatti sulle comunità campane. Il decreto torna a battere su questo piano, ma crediamo che sia l'unica risposta che le istituzioni, che lo Stato italiano sappia dare, senza assumersi alcun tipo di responsabilità rispetto al biocidio, e proprio su questo piano i comitati alzeranno le barricate e faranno, daranno battaglia, proprio perché non è concepibile rinchiudere il tutto da un lato a un problema esclusivamente legalitario rispetto alla questione Camorra-Rughi, dall'altro lato crediamo che sia impossibile che la militarizzazione del territorio, il controllo, possano servire a qualcosa, anche se pensiamo ad esempio che la discarica di Ferrandelle qui in provincia di Caserta era gestita dai militari, e gli stessi militari aprivano le porte della discarica per fare in modo che poi quella che il mainstream chiama camorra potesse sversare rifiuti tossici industriali all'interno di una discarica per rifiuti solidi urbani. Sicuramente c'è chi abboccherà a queste favolette raccontate dal governo Letta e dei suoi ministri. Fortunatamente però possiamo affermare che la stragrande maggioranza delle comunità campane è ben conscia, e i saperi che hanno sviluppato le lotte sono serviti a questo e serviranno per smontare questo tipo di costruzione, che poi tra l'altro è sempre la stessa. Io ricordo quando nel 2001-2002 ci battevamo contro le discariche, venivamo tacciati di essere camorristi, diciamo, il discorso è sempre lo stesso. Tra l'altro, insomma, anche noi abbiamo letto che il decreto è stato appoggiato sia da FIOM che da Libera, e quindi insomma, a proposito di chi lo appoggia. Sì, per noi non è assolutamente una novità, anzi sì, FIOM, sì. Libera, ma la stessa Legambiente, che sappiamo bene essere legati a tutte e tre le organizzazioni, al PD, hanno posizioni inceneritoriste, nemmeno a farlo apposta hanno taciuto, non si sono mai visti né ai presidi, né alle lotte, né ai cortei. Poi a due o tre giorni dalla manifestazione del fiume in piena, carpendo, diciamo così, le potenzialità di quel movimento, hanno fatto uscire un documento che però ha lasciato il tempo che trova. Noi non crediamo a questo tipo di organizzazioni che pretendono di rappresentare da un lato le lotte della gente, dall'altro lato di rappresentare l'antimafia. Noi come compagni della zona del Casertano facciamo anticapitalismo, l'antimafia è esclusivamente, diciamo, un costrutto fatto dal sistema, il gioco delle parti, c'è chi deve fare il mafioso, chi deve fare l'antimafia, ma poi alla fine sappiamo bene che gli interessi grossi capitalistici industriali poi mettono d'accordo tutti, sia quelli che vengono chiamati mafiosi, sia quelli che poi dicono di fare l'antimafia. Allora guarda, ti ringraziamo tantissimo anche per questa tua analisi finale, molto interessante, e non so, ci sono degli appuntamenti a seguire, insomma? Ma ci sarà un'assemblea pubblica giovedì, sempre del fiume in piena, per capire in che modo attraversare queste feste natalizie e in che modo costruire nuovi appuntamenti, soprattutto contro il decreto e contro la militarizzazione del territorio, e si spera che poi ci saranno durante tutte le festività natalizie alcune iniziative diciamo così simpatiche da mettere in campo contro il decreto e per far ripartire dall'anno nuovo il fiume in piena, ma soprattutto tutti i rivoli che l'hanno composto, quindi tutte le vere lotte locali, le lotte dei territori, che sono, diciamo così, il terreno di scontro privilegiato per quanto ci riguarda rispetto a una situazione più complessiva. Crediamo che adesso, anche alla luce di questo decreto, il campo di battaglia dei movimenti sia appunto nelle vertenze locali e sui territori, a Giugliano contro l'inceneritore, a Capo contro il gassificatore e contro le decine di centrali a biomasse che stanno nascendo sul territorio campano. Ti ringraziamo, a risentirci presto allora. Grazie ancora a voi, per il tuo contributo. Buonasera. E allora, dopo questa corrispondenza, andiamo con un po' di musica e ci risentiamo tra qualche minuto. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm mocking deaf rock stars. Wearing synthetic wigs made of anwars. Dreadlocks, bedrock, harder than a motherfucking Flintstone. Making crack rocks out of pussy nigga fish bones. This nigga Jasper trying to get grown. About 5'7" of his bitches in my bedroom. Swallow the cinnamon, I'ma scribble this shit and shit. My Sid is telling me that she's been getting intimate with me. Sid, shut the fuck up. Use the number to my therapist. You tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. already got mine and he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 3 past 6 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cop 9. This ain't no VTech shit or Columbine, but after bowling, I went home for some damn adventure time. What you mean? I slipped myself some pink Xanax, danced around the house and all over print panties. My mom's gone, that fucking broad will never understand me. I'm not gay, I just wanna boogie to some Marvin. What you think of Haley? Fuck her, Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that faggot nigga Bob's in and stab Bruno Mars in his goddamn esophagus and won't stop until the cops come in. I'm an overachiever, so how about I start a team of leaders and pick up Stevie Wonder to be the wide receiver? Green paper, gold teeth, and pregnant gold retrievers, all I want. Fuck money, diamonds, and bitches don't need them. But where the fat ones at? I got something to feed them and some cooking books. The black kids never wanted to read them. Snap back, green, chia fucking leaves. It's been a couple months and Tina still ain't perma fucking weave. Damn. Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dare voce alle lotte territoriali che si battono contro le nocività ambientali, e approfittiamo insomma di questi ultimi minuti per parlare un po' in generale di alcuni studi che sono stati effettuati sui cambiamenti climatici e in generale sul riscaldamento globale. Infatti appunto c'è stato il primo studio di cui andiamo a parlare, è stato effettuato da un gruppo di scienziati di diverse nazionalità e pubblicato su Plus One, e praticamente insomma contesta sostanzialmente la decisione presa dal recente congresso ONU sul clima, è stato fatto a Varsavia, in cui è stato posto a 2 gradi il limite dell'aumento per il riscaldamento globale. Infatti, secondo diciamo questo gruppo di scienziati, un aumento di 2 gradi sarebbe estremamente pericoloso e porterebbe ad un orizzonte massimo di 30 anni in cui verrebbe raggiunto il tetto delle emissioni di anidride carbonica a 1.000 miliardi di tonnellate, e questo limite è considerato proprio un obiettivo invalicabile oltre il quale il pianeta si avvierebbe verso una catastrofe ambientale inarrestabile, insomma. Quindi ma quindi praticamente il limite che si cerca, o comunque i paletti che si cercano di mettere per contrastare i cambiamenti climatici, in realtà insomma, facendosi 2 calcoli, non produrranno gli effetti voluti, anzi porteranno con una soglia di tempo comunque a una situazione molto pericolosa. Sì, di fatto insomma, come al solito quando si ha a che fare con questi problemi di inquinamento, di emissioni, non si pensa a ridurre le emissioni, ma si pensa soprattutto ad alzare poi il limite in cui appunto possono essere messe appunto queste sostanze dannose. In questo caso appunto non è stato sostanzialmente deciso nulla, ma è stato rimandato tutto fino a a una situazione in cui il riscaldamento globale porterà ad un aumento di 2 gradi la temperatura terrestre. Quindi che comunque, arrivando a un aumento di 2 gradi, sì, da questo studio emerge il fatto che arrivando a un aumento di 2 gradi, dopo la situazione comunque ci sarà già sfuggita di mano sostanzialmente, e quindi si prospettano interventi che sono praticamente inutili. Sì, sostanzialmente poi appunto ci sono diversi quindi studi. Quindi queste conferenze del clima sono utili, sì, sono strumenti fondamentali, sono degli strumenti imprescindibili, potremmo dire. L'altro studio invece è effettuato dall'Accademia Nazionale delle Scienze del Regno Unito, e praticamente insomma ha trovato una relazione anche abbastanza che possono notare tutti, insomma, tra il riscaldamento globale terrestre e i super tifoni che si stanno abbattendo soprattutto negli ultimi anni su diverse aree del pianeta. Diciamo il campanello d'allarme si è acceso con l'uragano Katrina, che è stato che ha distrutto New Orleans, e in cui appunto i venti registrati arrivavano addirittura a 280 km orari. Sostanzialmente quello che accade è che il riscaldamento degli oceani avrebbe fatto aumentare l'evaporazione e di conseguenza il tasso di umidità dell'aria. Questa condensa e piano piano genera un sistema di precipitazioni violente che vengono definite appunto bombe d'acqua. In particolare il riscaldamento del mare viene proprio visto come il vero carburante degli uragani, e quindi diciamo sostanzialmente è la causa della violenza costantemente crescente delle precipitazioni che negli ultimi anni hanno flagellato il globo terrestre. Tra l'altro, facendo diciamo un'analisi di quelli che sono gli ultimi uragani più violenti dal 1913, tra i 10 uragani più violenti dal 1913, ben 6 sono succeduti solamente dal 1998 ad oggi. E tra l'altro il più potente di tutti è l'ultimo, cioè quello che ha devastato due settimane fa le Filippine. Quindi diciamo c'è un crescendo da questo punto di vista della violenza dei tifoni, che è appunto è stato messo in relazione con il riscaldamento globale. E tra l'altro appunto diciamo che non riguarda un po' tutto il pianeta, e in particolare ultimamente sta riguardando anche l'Europa, come è avvenuto appunto in Sardegna e nell'Italia centro-meridionale. E un altro studio attribuisce proprio a cause umane, scusate, con una sicurezza del 95% diciamo gli effetti del riscaldamento globale. Quindi al 95% secondo l'IPCC sarebbe dovuto sostanzialmente a effetti prodotti da attività umane. Beh, insomma, che le attività umane e le attività industriali producano nocività e conseguenze per la salute delle persone e per l'ambiente, noi non abbiamo nessun dubbio, e probabilmente uno dei motori industriali di questo pianeta, che da 30 anni a questa parte sta macinando più inquinamento di tutti, è la Cina. E proprio la Cina, ormai sono parecchio tempo che vive una situazione drammatica rispetto allo smog e alla nebbia, anzi allo smog, cioè la nebbia più i fumi prodotti dalle attività industriali. E insomma si succedono notizie in relazione proprio alla scarsità di visibilità in molte grandi città cinesi, di chiusura di scuole, aeroporti, un po' ovunque, ma a quanto pare le autorità cinesi pensano a tutt'altro. Sì, infatti diciamo chiudiamo con queste notizie che arrivano dalla Cina, abbastanza scoraggianti. Poi non si riesce bene comunque a comprendere quale sia il dato effettivo, si possono vedere le immagini su internet, si vedono appunto queste skyline completamente coperte dallo smog. Comunque appunto a quanto pare la situazione a Shanghai è peggiorata notevolmente, in quanto città Shanghai è una città di mare e quindi di solito beneficiava appunto del vento che proviene dalla costa, ma in questo momento di risacca sono state effettuate dei rilevamenti per la concentrazione delle polveri sottili, che sono risultate pari a 602 microgrammi per metro cubo, dove il limite di sicurezza indicato dall'OMS è di 25 microgrammi. Quindi c'è una cifra abnorme, però nonostante questo insomma le autorità non hanno deciso insomma di prendere misure estreme, ma hanno innalzato la soglia d'allarme sostanzialmente. E poi vabbè, sono state comunque chiuse scuole, uffici, e a quanto pare c'è una caccia alle cosiddette mascherine antismog, che sono diventate sempre più diciamo una risorsa introvabile in Cina e probabilmente necessaria e indispensabile per andare avanti durante la giornata all'aria aperta. Beh, però diciamo che di fronte a questi dati sembrano quasi anche inutili, insomma. sì, probabilmente mascherine con quelle concentrazioni di inquinanti nell'aria, insomma, servono a ben poco. Però insomma c'è chi pensa in realtà che questo smog, questa nebbia sia molto utile, perché questa fitta coltre di metalli pesanti difende la privacy dei cinesi, difende il territorio cinese da eventuali attacchi. E infatti più di qualcuno nei media cinesi insomma parla, sì, dice che fa male, e queste coltri di smog producono insomma effetti negativi sulla salute. Però insomma dal punto di vista militare ci permette, vediamo il lato positivo, esattamente, insomma. Cioè, sono utili per la difesa, comunque sono, cioè, utili per la difesa, perché insomma complicano notevolmente attacchi aerei e attacchi missilistici, la possibilità di utilizzare satelliti per lo spionaggio e insomma e attività di questo tipo. È una mossa strategica ed è probabilmente al Ministero della Difesa che ha imposto questo tipo di occultamento delle città cinesi per difendersi dai futuri attacchi. Ed è veramente surreale portare giustificazioni del genere a una situazione ambientale che è al limite del collasso. Diciamo che con questa ultima notizia abbiamo chiuso per oggi con Impatto. Chiudiamo la trasmissione con gli appuntamenti, almeno quelli della settimana, ricordando che giovedì 12 dicembre a Colleferro alle 18 a via Alfredo Nobel, sala 70, c'è cioè un'assemblea pubblica contro le devastazioni ambientali. Venerdì 13 in mattinata alla Regione Lazio a Garbatella ci sarà questa pseudo presentazione del piano dei rifiuti regionali, e quindi insomma probabilmente non mancheranno contestazioni a questa iniziativa. E invece sabato 14 dicembre assemblea pubblica alle ore 15 al Lucernario Occupato, proprio per rilanciare le mobilitazioni sul piano regionale dei rifiuti. Questi sono gli appuntamenti. Ricordiamo che è uscita la Scarceranda 2014, la potete trovare qui a Radio Onda Rossa a via De Volci 56, oppure distribuita in varie librerie e centri sociali. Noi ricordiamo che domani alle ore 18 al bar Zazzì nel metro al Pigneto a via Braccio da Montone 88 ci sarà una delle presentazioni della nuova agenda Scarceranda, agenda che permette, che insomma permette, contribuendo a questo progetto, acquistando l'agenda, dà modo a Radio Onda Rossa di distribuire le agende nelle carceri italiane ai reclusi che ne fanno richiesta. Con questo è tutto, chiudiamo la trasmissione di oggi di Impatto e a risentirci alla prossima settimana. E un saluto a tutte le persone, ai compagni e alle compagne privati della loro libertà personale. A risentirci alla prossima settimana.